kamu dumuduh oh Tuhan di palu ahodoa sia sude akadosaku di rongani hodoa di urupi hodoa di sude nama sadi ngoluku ai hodo Tuhan Hai Hodo Rajaku. Namena sumurung di ape kotua patuhu horo hati asa bergogo Hai Hodo Tuhanku, Hai Hodo Rajaku, Tukolo Tuhan, Hodo Pamandiaki, di parngoluoku kuasa Hodo. Hola.